Buonasera a tutti e benvenuti al 59esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia dell'8 gennaio 2012. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist e coordinatore del Chapter Napoli. Quest'oggi mi tratterò con altre novità nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto al GDL Consumo Cosciente, visto che abbiamo qui la coordinatrice Giovanna Marino. Dopo lascerei la parola così puoi illustrarvi meglio. L'abbiamo già lanciato la settimana scorsa e adesso in via ufficiale l'abbiamo lanciato anche sulla nostra piattaforma e quindi è già operativo. Ecco il link, quindi potete aprirlo e visualizzare la descrizione. E se posso vorrei leggere l'articolo che ha scritto Giovanna con tanta attenzione. La consapevolezza della qualità della vita passa attraverso le scelte che noi facciamo quotidianamente. Il nostro comportamento in fase di acquisto è estremamente importante in quanto ci permette di concretizzare tali decisioni. Questo gruppo di lavoro intende creare una documentazione, video, PDF, opuscoli, eccetera, accessibile a tutti, che permetta di valutare i prodotti che acquistiamo per la cura del nostro corpo, per la pulizia della casa e i nostri cibi, evitando le componenti tossiche che spesso sono incluse, a nostra insaputa, tra gli ingredienti. Inoltre, vuole proporre una serie di prodotti fatti in casa, divulgandone le modalità per offrire una valida alternativa. È strategico sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, al fine di migliorare la nostra salute, ma anche l'ambiente in cui viviamo. Il lavoro verrà svolto in modo scientifico, attraverso un'accurata ricerca delle fonti e dell'informazione. L'invito a partecipare è rivolto non solo a chi abbia competenze tecniche, ovvero chimici, medici, farmacisti, dietologi, eccetera, ma anche a tutti coloro i quali possono offrire un po' del loro tempo per la catalogazione, ricerca, divulgazione, eccetera, e tutte le attività correlate che via via si renderanno necessarie. Un caloroso abbraccio di benvenuto da parte di Giovanna Marino, coordinatrice del GDL Consumo Cosciente. Ok, secondo articolo, meeting con Salvatore Proto, dei responsabili nazionali su conferenza in Parlamento. Aprite il link così noterete tutti le novità. Allora, il meeting avverrà su TeamSpeak, il canale si chiamerà Meeting con Salvatore Proto e avverrà il domenica 15 gennaio 2012 alle 21.30. Volevo fare subito una premessa, siccome stiamo trattando di un coordinatore nazionale di un movimento politico che fa parte del Parlamento e quindi del giro dei partiti politici, è da ribadire e da sottolineare che questo non è un incontro per formare alleanze con partiti politici. Infatti, Salvatore Proto, come socio fondatore e coordinatore nazionale del Movimento Responsabilità Nazionale, vuol metterci a disposizione una sala parlamentare, che si chiama Palazzo Marini, se non erro, dove istituire una conferenza a scopo informativo. Vaglieremo la proposta ribadendo che non accetteremo nessun accordo con partiti politici, bensì vogliamo considerare l'opportunità comunicativa di entrare nelle case di milioni di italiani, con argomentazioni che nessun media, a parte rarissime eccezioni, ha provveduto a diffondere. Quindi aprite l'articolo che vi ho postato e ci saranno informazioni sulla persona e sul movimento. Ok, prossimo articolo. Simposio Società Sostenibile. I video. Abbiamo incominciato a lanciare i primi 3 video del nostro bellissimo simposio che si è svolto al Verona e ovviamente c'è la presentazione del nostro fondatore Federico Pistono e successivamente ci sono i video di Enrico Caldari e di Daniele Mancinelli, che è qui presente in stanza. E il video di Enrico Caldari è un video di tipo economico che mostra come il nostro sistema monetario basato sul debito sta diventando sempre più obsoleto e propone delle valide alternative come un'istituzione di una moneta locale, eccetera. Quindi avrete tutto il tempo di guardare il video, di goderne delle bellissime proprietà oratorie di Enrico Caldari. Successivamente il nostro Daniele Mancinelli ha spiegato appunto pro e contro di un sistema competitivo, e in maniera storica analizza come in realtà la competizione sia stata positiva fino a un certo periodo per la nostra società e poi mano a mano, superato un certo limite, si è andata mano a mano a decrescere la qualità della vita. E quindi vi consiglio di guardare anche questo video perché sono molto belli, molto informativi. Ok, prossimo articolo, TED. Just Enough Tipping, svincolare energia dalla rete. TED è l'acronimo di Technology Entertainment Design, che è una piattaforma dove parlano persone che danno grandi contributi sia a livello tecnologico, sociologico, artistico per il mondo, e è una riunione che si svolge ormai, sono una serie di riunioni che si svolgono in tutto il mondo ed è diventata ormai famosissima, anche qui in Italia si svolgono. In particolare il nostro GDL doppiaggio, e grazie soprattutto a Ezio Marano, che ha contribuito al doppiaggio di questo video, approfitto da sviluppare questa bellissima clip di un imprenditore, guardate un po', che si chiama Just Enoll Tipping, e ha parlato di come le nuove tecnologie, in particolar modo delle tecnologie a carbonio, le cosiddette nanotecnologie, possono aiutare la produzione di energia, non a livello infinito, ma comunque possono dare un grandissimo aiuto per abbattere l'inquinamento e soprattutto salvare milioni di vite che purtroppo cessano per donarci l'energia. Prendiamo ad esempio l'Africa e tutti i loro abitanti che comunque sono stati conquistati per darci l'energia a noi e quindi farci avere un determinato tipo di vita e una qualità di vita superiore assolutamente a loro. Quindi assolutamente vi consiglio di guardare questo video e di diffonderlo e di comunque metabolizzarlo e di prendere coscienza. Ok, grazie alle amicizie, soprattutto grazie al Movimento Zerogas, abbiamo avuto il contatto, sono entrato in contatto con Massimo Merighi che mi ha presentato Tony Troia. Tony Troia e Massimo Merighi sono due famosi cantanti, il loro genere è quello satirico e chi bazzica su YouTube li conoscerà sicuramente perché fanno delle canzoni molto carine a sfondo ironico. E siamo entrati in contatto con loro, quindi sicuramente nascerà un'associazione, una joint venture culturale soprattutto, e niente, la connessione è importantissima, quindi collegarsi a persone affini a determinate idee o a movimenti come quello che abbiamo questa sera, Open Source Ecology, è importantissimo per velocizzare il cambiamento e per portare una spinta culturale non indifferente, che soprattutto quest'anno ne abbiamo molto bisogno, da quest'anno in poi. Nel link che ho postato comunque ci sono il loro canale YouTube e potrete goderne e potete farvi più o meno, cioè, quattro risate. Ultimo ma non meno importante, abbiamo qui questa sera il fondatore del movimento Open Source Ecology Italia che si chiama Jacopo Amistani e di cui abbiamo parlato di questo bellissimo movimento al nostro simposio due volte, uno con Federico Pistone col suo talk bellissimo e una volta con il mio talk. Ed è una di quelle soluzioni che si possono già attuare, che stanno soprattutto prendendo largo e stanno diventando molto famose. Comunque, dopo la reportistica dei GDL dei gruppi cittadini, avremo modo di ascoltare e di dar spazio completamente al fondatore che è qui presente in stanza. Quindi assolutamente vi consiglio di iscrivervi alla pagina Facebook linkata qui nel seguente post e vi consiglio altamente di iscrivervi. Bene, per questo inizio di anno le notizie sono finite e volevo dar spazio alle reportistiche dei gruppi di lavoro, ovvero dei GDL. Allora vado io. Vai German con il GDL Tecnologia, vai. Vabbè, visto le feste siamo un po' fermi, un po' scollegati tra di noi, però i progetti vanno avanti e per adesso quello che sta andando avanti di più è quello dell'idroponica e abbiamo anche il progetto Stirling che in questo momento è un po' fermo per un po' mancanza di tempo e anche per le feste, però ripartirà tra un po'. E per quanto riguarda la stampante 3D non ho molte notizie perché anche il coordinatore del GDL Tecnologia è in ferie, quindi era un po' che non lo sentiamo, però si va piano ma si va. Vabbè, l'importante è che andiamo. Ah, giusto per rendervi noto, il motore Stirling è uno dei progetti sull'autoproduzione energetica che stiamo portando avanti ed è, secondo le nostre informazioni, è uno dei motori più efficienti possibili che va intorno al 40% di rendimento totale. Magari poi mi potete correggere se erro, vi ringrazio. C'è qualche altro coordinatore? Volevo aggiungere un'altra cosa, abbiamo parlato un po' di invece di usare TeamSpeak, cominciare a usare Mumble, più che altro perché open source, e abbiamo fatto una bella prova venerdì scorso, e ci siamo riuniti in 5 o 6 su Mumble, che abbiamo visto che ha molto più facile da installare, visto che abbiamo la cavia ufficiale del GDL Tecnologia, e quindi abbiamo provato in quel modo. E qualcuno che ci capisce poco è riuscito a installarlo in 10 minuti e ci siamo incontrati su Mumble e abbiamo visto anche che la qualità di audio è superiore, anche se c'ha qualche funzione in meno, tipo le bandine e quelle cose lì. Ok, grazie. Adesso passerei la parola alla coordinatrice del GDL Consumo. Allora, sì, noi abbiamo fatto già il secondo incontro e abbiamo cominciato a mettere giù bozza di perché ci siamo resi conto che il campo è vastissimo, per cui intanto ho deciso di cominciare con studiare le e i dentifrici, i componenti e soprattutto poi abbiamo il validissimo aiuto di Katia, la moglie di German, che ci ha le sue favolose ricette fatte in casa. Ma intanto adesso abbiamo cominciato questo piccolo progetto, poi chiaramente dovremo un po' anche organizzarci, perché appunto il vasto e quindi richiede anche un approccio un po' più razionale, quindi insomma sicuramente cercheremo di fare un prospetto dei nostri lavori per il futuro. Siamo già a 22 iscritti, forse ce n'erano decina, quindi penso più che contenti e siamo molto entusiasti tutti quanti perché ovviamente il lavoro è molto interessante. Quindi ringrazio tutti l'entusiasmo per la partecipazione e sicuramente otterremo degli ottimi risultati. Ho presentato il gruppo di lavoro anche a livello internazionale perché vorrei che diventasse Vorrei che anche all'estero, negli altri chapters, creassero dei gruppi uguali, in modo anche da dividere il lavoro, anche perché appunto ormai le multinazionali, i prodotti sono più o meno gli stessi nel mondo, quindi la problematica, componenti tossiche, allergie, eccetera, sono dappertutto. E quindi speriamo che adesso magari Ok, degli altri perfetto. gruppi. Grazie. Grazie a te, Giovanna. Prego, Diana, del GDL Traduzioni. Ciao a tutti, buonasera. Io collaboro con il GDL Traduzioni, anche noi abbiamo ottime notizie per questa sera. Siamo riusciti a procedere con diverse traduzioni e revisioni, abbiamo una ventina di video quasi pronti per la pubblicazione. Quindi tra poco inonderemo il vostro canale. Altri progetti importanti invece sono su Pootle, che è questa piattaforma che utilizziamo per tradurre, e siamo il team nazionale che ha tradotto più di tutti, quindi siamo arrivati al 95%, abbiamo quasi finito e Giovanna, che è qui presente, ci ha dato un grande contributo collaborando con le revisioni. E quindi tutto procede bene e come dicevi tu sono stati pubblicati i video del simposio e anche per questi cerchiamo collaborazione perché li stiamo trascrivendo, quindi buttiamo giù il testo in italiano in modo che poi dal testo scritto gli altri team stranieri possano tradurlo alle varie lingue. In questo caso spagnoli sono già partiti e si sono tradotti diciamo, la versione nella loro lingua. Ezio, che è un nostro collaboratore, sta traducendo al francese. Se tra di voi, se vi presenti, c'è qualcuno che conosce qualche altra lingua e vuole collaborare, mi contatti pure che do tutte le indicazioni. Ecco, c'è anche un aspetto tecnico che riguarda la sincronizzazione della trascrizione e questa è una cosa che può fare chiunque, basta avere una buona connessione internet. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, Diana. Vi ringrazio tutti e sono veramente contento che stiamo cominciando molto molto bene. Ok, perfetto. Passiamo ai gruppi cittadini. Vorrei cominciare io così vi lascio parlare e mi zittisco. E passiamo dopo a Open Source Ecology. Ok, qui nel chapter Napoli stiamo organizzando una serie di proiezioni e ovviamente cominceremo in piccolo in una sala di una radio, in provincia di Napoli. E faremo vedere, oppure stiamo decidendo se far vedere a pezzi Moving Forward. Abbiamo ricevuto un paio di feedback, sia in due parti oppure in quattro parti direttamente per ogni capitolo. Opzione che preferirei io personalmente, ma poi vedremo dalla disponibilità del direttore della radio. E quindi, oppure direttamente passare a una conferenza. Quindi, ci prepariamo i discorsi, quindi lo spieghiamo e diamo poi il via a un dibattito che, diciamo, sarebbe anche una buona cosa. E inoltre volevo dirvi che qui a Napoli è nato un comitato che si chiama CAT, che è l'acronimo di Cittadinanza Attiva Territoriale, quindi CAT, e niente, si basa appunto sull'articolo 118 della Costituzione italiana che dice, che recita: Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà. Insomma, questo gruppo adesso nato, che sta raccogliendo vari membri, di cui anche Daniele Mancinelli fa parte, e si sta sviluppando appunto per divulgare innanzitutto delle idee sulla sostenibilità, sull'autoproduzione, sulla mobilità sostenibile, e quindi attuarla poi nel pratico. Sono quei comitati che comunque agiscono localmente, ma che danno un forte impatto sulla cittadinanza di quel luogo. Quindi sono entrato a far parte anche di questo comitato e porterò anche altre idee, loro porteranno idee a me soprattutto, così avremo uno sharing di idee e miglioreremo progetti e iniziative varie. Quindi per adesso il mio report è finito dalla mia città, passerei agli altri coordinatori, grazie. Sì, proprio. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Sabato, in collaborazione con Martino, lo psicologo che ha l'associazione Sto Bene con Tutti, che fa praticamente un po' di social therapy, una cosa molto importante, mi ha invitato via Skype, io da casa mia. Ho fatto una piccola introduzione, una presentazione sul movimento e ho elencato un po' anche le aspettative open source. Erano più o meno una trentina di persone, io da casa a Ferrara e loro in collegamento erano ad Abano Terme, in provincia di Padova. E niente, è andato tutto bene, entusiasti, sono molto affascinati dall'open source. E adesso si stanno valutando tutti i link che gli ho dato e comunque vorrebbero farne altre. Anzi, aggiungo proprio che secondo me è anche un'ottima iniziativa semplice e molto divertente la possibilità proprio di sfruttare il più possibile i mezzi informatici, perché ci dà proprio la possibilità comodamente da casa di fare anche delle conferenze tranquillamente con tutte le persone che vogliamo. Quindi aggiungo solo questa cosa perché la ritengo sempre un punto fondamentale. Per la questione di tempo anche che abbiamo tutti quanti noi, che siamo sempre impegnati in altre cose nella vita quotidiana, e quindi abbiamo sempre pochissimo, pochissimo spazio per dedicarci, diciamo, al movimento e nient'altro. La mia reportistica è questa. Comunque, più avanti vi aggiornerò anche su alcuni altri progetti. Niente, tutto qua. Ringrazio Fausto. Noto anche che c'è il coordinatore del gruppo Firenze, Sherman Diego, e non so, ragazzi, potete aggiornarci anche sul progetto del meeting nazionale? Grazie. Dico anch'io una cosa velocissima, noi come gruppo cittadino saremo domenica 15 a Verona, Palazzo della Ragione, al Verona Comics, e avremo un tavolo e presenteremo come sempre il nostro progetto locale che è questo gioco appunto che presenta il movimento. Ecco, quindi domenica prossima a Verona, per chi è interessato, contattatemi per ulteriori informazioni. Ok, perfetto. Gruppo di Firenze. Sì, abbiamo continuato a scrivere e riguardare la bozza per il progetto mediatico, quasi ultimata, mercoledì faremo un altro incontro per rivederla l'ultima volta e quindi poi fisseremo un TeamSpeak qui, penso o mercoledì 18 o domenica 22, bisognerà decidere un giorno per esporla a tutti, insomma, discuterla e provare. Sì, infatti, parlando Sì, prima con. infatti, Vai, scusa. scusami, andavo prima e tra l'altro, già che facciamo un minimo di report, anche se ancora poi appunto dovremo presentare tutto il documento, eccetera. Però si può anche, se sei d'accordo Diego, già dire più o meno le cose che ci dicevamo anche oggi, ovvero che noi mercoledì cominceremo anche con Alex a lavorare sui vari contributi, vari inserti, cartoni animati, servizi, e ci piacerebbe produrre diverso materiale. Ora, per ora siamo ancora nell'ambito della progettazione, però ci piacerebbe fare delle interviste alle persone. Questa è l'ultima idea del momento, delle persone per la strada, per vedere e tentare di rispondere a quella che è la coscienza collettiva sui vari temi del sistema socio-economico e comunque del nostro concept, in modo poi da rimbalzare in studio e continuare a ragionare più o meno seriamente con il presentatore e i vari ospiti. E mercoledì cominceremo anche a fare delle bozze per dei cartoni animati che spieghino la storia del sistema socio-economico, com'è possibile che si sia arrivati fino a questo assurdo impasse che viviamo in queste ore drammaticissime, che secondo me, questa è la mia personalissima opinione, dovrebbero assolutamente rimbalzare al centro della nostra analisi, protesta, attività, social therapy, chiamiamola pure come vogliamo, perché i nodi stanno veramente venendo al pettine e quindi è assolutamente urgente informarci noi prima di tutto, che a volte siamo un po' lontani, nonostante il nostro movimento si chiami Spirito del Tempo, dallo Spirito del Tempo, quindi informarci per prima, per poi riuscire a veicolare al meglio a tutta la popolazione che cosa sta succedendo. Perché, insomma, stanno passando leggi per cui possono venire in casa senza mandato di GIP per vedere se abbiamo delle armi, perché danno per scontato che sta per arrivare uno scontro sociale. Si sta cominciando a dire che l'euro l'anno prossimo non esisterà più. Io e Diego, forse anche qualcun altro, siamo reduci da una ghiacciante intervista al presidente del Consiglio Monti, che a me mi ha lasciato totalmente di stucco e sono ancora abbastanza scosso proprio. Quindi la cosa che dicevamo oggi con Diego, scusate, mi dilungo, lo sapete, ormai mi conoscete, è che una volta che il progetto verrà approvato, ma insomma a questo punto credo che non ci siano problemi di sorta, sarà interessante fare degli spot, visto che comunque uno dei che sarà anche al centro della discussione, della presentazione, sarà ovviamente anche come finanziare tutto questa bella conferenza online, che però deve essere anche bella come audio-video, quindi ha dei costi ovviamente maggiori rispetto a quelli che possono essere per una, tra virgolette, semplice conferenza o un simposio o quant'altro. E ovviamente il primo sponsor siamo noi stessi, e quindi l'autofinanziamento, anche cercando poi di reclutare altre mani volenterose dagli altri movimenti che potrebbero appoggiarci, però sarà interessante cominciare a lavorare. Questo è un invito rivolto a tutti, anche chi in questi giorni, in queste settimane, in fase di preparazione, avesse voglia di cominciare ad interessarsi. Dovremo produrre diverso materiale, sia da inserire poi nella trasmissione, e appunto ci sono questi cartoni animati, queste interviste, sarebbe carino averle magari anche da varie città, che poi fare gli spot dei virali, delle presentazioni, un sito dove raccogliere i fondi e quant'altro, per avere la massima visibilità e anche la massima capacità produttiva a livello di risorse sia umane che economiche, perché qui i tempi corrono rapidi, ragazzi. Scusatemi. Ok, adesso abbiamo Davide Gaullo da Milano. Vai, vai Davide. Ciao ragazzi, da Milano, eccomi qua. Allora, facciamo un po' riassunto delle nostre attività. Ci abbiamo un paio di eventi questo mese abbastanza interessanti. Ci abbiamo la presentazione del gruppo cittadino a tutti i nuovi interessati il 21 a Chiama Milano, come sarà poi ogni mese, la terza settimana di ogni mese. E molto interessante, il 22 parteciperemo a Soldi d'Artista, che è una mostra artistica allo Spazio Tadini, che è una galleria d'arte di Milano, ci hanno chiamato loro, ci hanno contattati, sono interessati al nostro movimento, la ragazza. La ragazza Melina ci ha invitati, abbiamo parlato un po' con lei, sta facendo questa mostra d'arte in cui cerca di vedere i soldi da un punto di vista artistico, cerca di dare il valore dei soldi e di togliergli un po' questo valore materiale che hanno raggiunto nei giorni nostri e vederlo un po' da altri occhi. E noi seguiremo l'intervento di Caldari, che parteciperà giovedì 19. Noi invece faremo l'evento domenica 22, dove Caldari più o meno distruggerà la moneta così come la conoscono le persone normali, farà emergere i vari problemi della moneta debito, della crescita infinita, e noi cercheremo di far notare quanto sia stupido rimanere ancorati a una moneta quando abbiamo tante risorse e menti a disposizione, perché rimanere bloccati su una moneta. Quindi cercheremo un po' di collegarci all'amico Caldari, che ha partecipato al simposio di Verona. Inoltre, ieri sabato ho partecipato all'incontro con Occupy, che si faceva a Milano, e abbiamo incontrato una ragazza che vive in Belgio, però è passata da Milano, e ci comunicava che a marzo vogliono fare una riunione Occupy a Bruxelles per consegnare una sorta di lettera al Parlamento europeo, dove daranno le loro proposte per innovare, per migliorare, per superare questa crisi. E ci chiedeva di partecipare, di andare con qualche rappresentante del movimento Zeitgeist italiano a Bruxelles, visto che stanno invitando i rappresentanti di ogni stato, ogni nazione, di tutti i vari movimenti che sono attivi. Ci diceva che in molti paesi, alla fine, quelli che mandano avanti i vari movimenti in piazza sono proprio gli attivisti di Zeitgeist o comunque di movimenti simili a noi. Quindi ci hanno chiesto di partecipare con uno, due, tre rappresentanti del movimento anche italiano di Zeitgeist. E poi avremo a febbraio la proiezione di Moving Forward, ma quello magari ne parleremo la prossima volta. Se avete domande, sono qui. Ok, ti ringrazio. Intanto c'era anche Carlo da Perugia che voleva fare una sua reportistica. Vai Carlo. Allora, ciao a tutti, dall'Umbria le novità sono che diciamo è partita la pagina sia Facebook che sul sito del Movimento Italiano di Perugia, che è il capoluogo, e probabilmente a breve sarà ripresa in mano il gruppo di Terni, che è l'altra provincia, cioè che appariva nella mappa dei gruppi cittadini sul sito del Movimento, ma che probabilmente era un gruppo che era stato lasciato un po' andare. Da Perugia abbiamo, inaspettatamente direi, raccolto in alla fine pochissimi giorni 15 persone dal nulla, senza, non so, senza inviti, senza amici, senza conoscenze. Quindi l'idea che già c'era prima, eravamo appena in due, era di fare un incontro. Ovviamente per conoscersi, parlare, eccetera, eccetera, insomma, scambiare input tra di noi e insomma, far partire anche qui in Umbria il movimento a livello territoriale. Probabilmente questo incontro si terrà entro febbraio, dato che questo per gli studenti universitari. Insomma, tra dicembre e febbraio è un periodo di fuoco, e quindi ci saranno sicuramente novità e i tempi d'attesa sono quelli che ho detto. Ok, grazie. Perfetto. Allora, direi di concludere le varie reportistiche e dare finalmente la parola a Jacopo Amistani, che è il fondatore di Open Source Ecology Italia. E Jacopo, Puoi presentarti, presentare il movimento Open Source Ecology e i propositi. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Vi ringrazio di avermi invitato al vostro meeting su TS. Molto felice di essere qua. Ho già avuto l'opportunità di scambiare qualche opinione personale con Vincenzo e con altri su quello che è il movimento Interessi Comuni. Io sono uno studente di 23 anni, sono di Padova, infatti vedo che ci sono un sacco di miei concittadini o comunque corregionali questa sera qui in chat. Sono uno studente di sociologia del terzo anno, mi sto per laureare, mi laureerò alla fine di quest'anno, e per una serie di vicissitudini particolari sono entrato in contatto con quello che è Open Source Ecology via internet, sempre con i video del TED, il famosissimo TED che Marcin ha pubblicato ormai nel 2006, e che io ho avuto l'opportunità di visionare solamente un anno fa, e da allora poi non me lo sono più tolto di testa. Semplicemente mi è rimasto lì, e andarlo a rivedere ho cambiato molto i miei interessi, sono andato piano piano a scoprire l'ecosostenibile, lo Zeitgeist Movement, Venus Project, i lavori di Fresco, tutto quanto quello che comunque era inerente a uno stile diverso di sostenibilità del vivere. E poi sono entrato in contatto effettivamente con quello che era il movimento europeo all'inizio di quest'anno. Ho avuto l'opportunità di parlare con Nicolai, che è il mio referente per l'Europa, e ho detto, dato che in Italia non esiste il movimento, volevo portarlo io. E ho detto, va bene, fallo. E qua sono qui, ho portato il movimento in Italia, quasi per caso, una sfida, perché mi ero stancato di sentire la gente che si lamentava e non faceva nulla, come ho già detto in precedenza. E bene o male, grazie anche a quelli che si lamentavano e basta, ho deciso, portiamo in Italia. Sono qui, siamo un buon numero, vedo che riscontro un grande successo anche tra di voi, la gente è interessata, c'è già gente che mi chiede di venire a lavorare, darmi una mano. In realtà noi siamo ancora un po' tanto freschi, però se questa qui è l'incipit, chissà cosa siamo tra due mesi. Il nostro progetto, beh, immagino lo conosciate, già ve l'hanno presentato un pochino al vostro simposio, vi spiego un po' come funziona. Noi progettiamo con l'open source, cioè con la condivisione di quelli che sono i progetti in internet, in maniera libera, tutta una serie di macchine, hardware, in libera condivisione, modifica, progettazione, scambio, utilizzo, che sono 50 macchine che sono state identificate dopo una curata ricerca, macchine base, per la creazione di un habitat, di una cultura ad alto contenuto tecnologico, che si rende automaticamente autosussistente nel momento in cui possiede questi 50 apparecchi, queste 50 macchine industriali. La cosa che è rivoluzionaria è che non prevede il dover vivere attaccati a un'industria, che sono tutte macchine che tu puoi costruire con le tue mani, con un minimo di conoscenza. Ma qua abbiamo personalità con un altissimo profilo professionale e con una grandissima passione, quindi anche se non abbiamo questo problema del fattore delle conoscenze, perché vedo che qui abbiamo dei personaggi molto molto caratteristici per la professionalità, noi abbiamo la possibilità di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che vada a rompere questa catena che ci rende schiavi di un'economia del consumo, dell'autodistruzione, e portare concretamente, oltre che con le idee, che è una cosa che Zeitgeist è stato da un sacco di tempo, anche col concreto, anche con qualcosa di concreto. E sono contento di essere qui stasera, e qualunque domanda voi vogliate fare su quello che è lo spirito dell'open source ecology, su il come intendiamo comportarci da qui in avanti, sul come intendiamo coordinarci, su quelli che sono i progetti a breve e lungo termine, vi prego, sparate domande rapide, sono qui per rispondere. Ok, ti ringrazio innanzitutto per essere qui, ti dico comunque siamo completamente affini alle idee di Open Source Ecology, tanto è vero che le abbiamo diffuse al simposio, ti aiuteremo per quanto possiamo, sia a livello comunicativo, sia a livello tecnico, sia appunto se ci sarà bisogno di fare una raccolta fondi, perché comunque siamo ancora in un sistema monetario, quindi c'è bisogno di portare avanti queste iniziative. Come ti ho già spiegato in precedenza, abbiamo GDL Tecnologia, Germana è qui presente, E niente, ti manderò i link per la collaborazione, quindi avrai a disposizione una bella piattaforma gremita di persone, delle persone che hanno competenze tecniche e tutta la buona volontà di cui disponiamo adesso. Quindi, ti ringraziamo e incominciamo una buona collaborazione. Poi, Ringrazio io. voleva parlare, scusatemi ragazzi, voleva parlare Flavio, che si era prenotato prima. Sì, io ho una domanda da farti. Quanto è realizzabile una di quelle macchine, di queste 50 macchine, da chi è totalmente all'oscuro delle tecnologie, ecco? Allora, di per sé una qualunque macchina richiede un minimo di conoscenza tecnica, ma vi assicuro, anzi vi prego, voglio che voi prendiate con mano, andate sulla pagina Facebook, andate sul sito di Open Source Ecology, andate su quelli che sono, è tutto quanto in forma wiki, quindi è assolutamente scaricabile, visionabile, sono file PDF, video per l'assemblaggio, file CAD per la costruzione degli elementi. La possibilità ti dice anche la tipologia di motori e pompe idrauliche da utilizzare, la strutturazione, quelle che sono le pressioni. È estremamente fattibile dal punto di vista concreto dell'opera. Il limite, quello più grande che si può avere, forse, è il fattore di dire: io non so saldare, come faccio? Allora si può sempre comunque chiedere a una persona di poterti insegnare, farti vedere. È molto intuitivo comunque. Una qualunque persona che ha un minimo di conoscenza tecnica osserva il progetto e si rende conto della semplicità, della banalità del progetto. È talmente facile, replicabile e modulare, perché la cosa geniale dell'open source ecology è proprio il fattore della modularità. Cioè, tu puoi prendere un generatore di pressione idraulica da una macchina che può essere il live track e portarla su quella che è la CEB press, cioè la macchina per fare i mattoni, a quella che in realtà poi è il micro trattore mono multiuso, a quella che sono le 50 macchine che esistono. È uno dei progetti che è all'interno dell'open source ecology, per esempio lo scambiatore di calore, c'è una fornace a induzione per la fusione di tutti quanti i tipi di metalli, c'è un elenco tale di macchine che sono effettivamente fattibili. Sì, c'è, è vero che si richiede un minimo di conoscenza, ma non vedo che qui manchi la conoscenza. Qui abbiamo personalità con un alto profilo professionale, alta conoscenza culturale, e il problema non esiste. Dove noi manchiamo, magari con il fattore pratico, signori, se una persona ha un minimo di spirito critico, osserva i progetti e dice: beh, te lo faccio io, che sono un saldatore, che sono un elettricista, ho amici che sono semplicemente meccanici, e ho detto: guarda, te lo faccio io, non ci vuole niente. Perché è una vaccata, quando la macchina, la saldatrice a laser, lo faccio, in 20 minuti ti ho fatto il lavoro. Più semplice di così, signori, sinceramente si muore. Scusate, prima di dare la parola a qualcun altro, io ti ringrazio personalmente per quanto mi riguarda, perché credo che di persone, insomma, che sanno portare avanti questi progetti ce ne sia veramente bisogno. Io credo molto nella tecnologia, soprattutto se è disponibile a tutti, aperta a tutti, e tutti la possono condividere. Quindi complimenti per il lavoro che state facendo, ma forse già lo state facendo, mettete in contatto con il nostro gruppo di tecnologia, speriamo venga fuori una bella collaborazione. Grazie ancora. Grazie a te. Come vedi qua, sfondi dei portoni aperti, Jacopo. Ho visto, sono compiaciuto. Ma apprezzo lo spirito critico, perché giustamente sono delle domande che vanno fatte, perché uno dice: tutti facili riempirsi la bocca, però vogliamo risultati. Io i risultati voglio portarli. Io voglio provare nei prossimi mesi, provare a fare almeno il primo generatore, voglio provare almeno a produrlo, a testarlo, a vedere se funziona. Se effettivamente c'è entro 2 mesi la possibilità di portare a termine questo progetto e il generatore è fatto e funzionante, allora da lì in poi la strada è tutta in discesa, perché nel momento in cui portiamo a compimento anche solo uno dei progetti, quelli più base, più semplici, e la gente vede che è qualcosa che funziona, allora abbiamo aperto un rubinetto che non riusciamo mai più a chiudere. Ok, volevo dare la parola a Daniele Mancinelli che voleva fare un intervento. Vai, Dani. Jacopo, hai già qualche idea sul territorio, su quale zone vorresti utilizzare per fare gli esperimenti? Io sono di Padova, e ho la possibilità comunque di muovermi nell'hinterland, nella zona al massimo del Trevigiano. Comunque io pensavo principalmente di restare nella zona in cui vivo, mi è uno più pratico, e ho un'organizzazione comunque con altre persone qui in città con la quale ci è più facile muoverci qui. Ovviamente se riusciamo a trovare un luogo, o qualcuno di voi o qualcuno dei miei contatti trova un luogo più consono e che ci permette anche di evitare di spendere dei patrimoni, anzi se riusciamo, quello che sto cercando di fare è recuperare un campo con attrezzi in usufrutto gratuito, cosa che esiste per la legge italiana, da una persona, un contadino che comunque ha un campo che non può utilizzare per via delle leggi comunitarie europee sulla produzione eccessiva di prodotti agricoli e noi calcolavamo di poter sfruttare questa cosa in maniera costruttiva e produrre qualcosa di differente utilizzando questo fattore dei limiti di produzione agricola e fare gli esperimenti in quei campi che sono non coltivati. Ok. Jacopo, mi piacerebbe, scusa, metterti in contatto con una persona che si chiama Alessandro Ronca, creatore del Parco per le Energie Rinnovabili, che secondo me è una persona molto interessante che potrebbe lavorare con te, perché lui sta facendo un esperimento di democrazia diretta e ha costruito praticamente una specie di hotel che è completamente alimentato ad energie rinnovabili e ha parecchio spazio che voleva dedicare a progetti per sviluppo di tecnologie e cose simili da dare un po', diciamo, ragazzi che vogliono fare qualcosa, se ti interessa. Ma guarda, ogni contributo è sempre interessante, poi magari lì possiamo prendere altri spunti per portare avanti altri progetti e quindi è un sì. A priori, se è una cosa che può essere utile, è sempre sì. Contatti vari ed eventuali, se andate sulla pagina di Facebook che ho creato, lì c'è la mail, che uso di referenza per il movimento. Preferisco avere tutti quanti i contatti lì in modo da potermi gestire in maniera più schematica e costruttiva possibile perché purtroppo ho talmente tanta mail, talmente tanti contatti e link che rischio di perderli, quindi se riuscite a mandarmi tutti quanti sulla mail di servizio del movimento è meglio perché così riesco a gestire tutto e avere una visione più completa di quello che è l'insieme di informazioni e contatti che ricevo. Grazie comunque. Ok, Perfetto. scusa Daniele, volevo dare la parola a Carlo che si era prenotato. Vai Carlo. Volevo chiederti, subito dopo aver composto, quali pensi che siano in ordine le cose, diciamo, che materialmente serviranno? Immagino sicuramente persone, non so, capacità, ma cos'altro immagini in base a quello che, non so, avrai scoperto indagando sull'open source ecology, diciamo, originale americano? Allora, vabbè, prima di tutto sono necessarie le persone e il luogo, ma più di tutto le persone più che il luogo, perché il luogo può essere anche un garage per la costruzione di un generatore idraulico. Non sono questi gli spazi sconfinati. Il problema è che subito dopo quello che avremo costruito, cioè il generatore, dovremo procedere con la costruzione del cheb press, cioè della macchina per la produzione di mattoni, con il trattore, e quelli richiederanno spazio e movimento per la sperimentazione, comunque anche il fattore anche di spostamento, perché è una macchina con determinate dimensioni. Il problema fondamentale, dopo aver trovato le persone e i luoghi, saranno i fondi, perché purtroppo quello che richiede l'OSE è proprio un fattore di recupero dei materiali e di questi materiali che vengono usati poi dalle persone con le giuste capacità. Se riusciamo a recuperare i fondi e a coprire le spese iniziali, sarebbe eccezionale, poi in ogni caso teniamo conto che c'è anche tutta quanta quella che è la catena del movimento europeo che ha già avviato un movimento di raccolta fondi e quindi oltre a voi ci sarebbero anche i miei co-movimentisti della Germania e del resto d'Europa che mi darebbero una mano, però più riusciamo a raccogliere da devolvere allo scopo di sperimentazione meglio è. Mi spiace fare questa politica così venale, però purtroppo come voi tutti quanti ben sapete viviamo in un mondo capitalistico e lo scheo, come dicono a casa mia, mi serve. Volevo sapere, hai già, diciamo, un'idea dell'ordine di grandezza, diciamo, economico di cui avrà bisogno il progetto per partire e di quali altri, non so, strumenti vadano reperiti, diciamo, inizialmente almeno? Allora, inizialmente la grandezza questo è un problema, perché il preventivo che loro fanno in dollari, solamente per il life truck, cioè il trattore, prevedono 12.000 dollari di spesa, che sono circa 7.500-8.000 euro. Comprando tutti quanti gli elementi a nuovo, senza utilizzare materiali riciclati. Noi ovviamente possiamo utilizzare una parte di materiali riciclati, ma alcuni elementi dobbiamo comprarli nuovi per forza, quali e le pompe idrauliche, quali i pistoni idraulici, quali anche le quantità spaventose di olio idraulico che dovremo comprare per riempire tutto quanto quello che è il percorso, e i tubi delle pompe, eccetera. Il motore, per esempio, il piccolo motore diesel da 28 cavalli per il generatore idraulico che ci servirà. E per il resto, poi come attrezzi, ci sarà necessità di quelle che sono smerigliatrici metalliche, flessibili, un saldatore, un cannello. Serviranno alcuni materiali, non è esattamente una spesuccia, richiede un determinato capitale iniziale che non è proprio contenuto. La cosa sulla quale io conto è il fatto che, proprio col fattore della gente che si interesserebbe a, potremmo recuperarli, farceli prestare o ricevere donazioni gratuite. Teniamo sempre conto del fatto che, la buona volontà delle persone che si interessano a un progetto del genere è anche quella di portare, la loro conoscenza, la loro mano e anche i loro attrezzi se ne hanno la disponibilità. Io conto anche in questo, oltre che nella possibilità di raccogliere un numero discreto di fondi. Posso farti una domanda anch'io, scusami, Jacopo? Io ho fatto un sopralluogo con un ragazzo che ho conosciuto a Verona, in una transition town nel bolognese, e però ho capito che è un po' un'altra cosa. Noi volevamo proprio prendere esattamente la cosa che stai dicendo te, un terreno in un nucleo familiare di 8, massimo 12 persone, e tentare di fare una cosa del genere. Non ho capito però, mi sono anche un attimo distratto, mi è suonato il telefono, perdonami, quanto deve essere grande il terreno e quanti, diciamo, nuclei abitativi stai pensando di realizzare tu? Insomma, cioè, se ci potessi fare un proprio spazio, soldi, persone, quanto? Caspita, tu mi stai chiedendo una pianificazione preventiva notevolissima. Non è una cosa Occhio facile da croce. fare. Non è assolutamente una cosa facile da fare, purtroppo, perché come voi tutti quanti ben sapete, i costi cambiano da luogo a luogo e buttarlo così su dei Ligen non è esattamente facile, anche perché poi noi siamo nati neanche da 10 giorni come strutture, quindi non ho ancora avuto la possibilità di fare un effettivo conto. Io contavo comunque su un 3.000 metri quadri di terreno come minimo per riuscire ad avere una produzione alimentare, una costruzione che dia anche un sostentamento a tutto quanto l'anno. Se si vuole parlare anche di costruzione di un edificio, l'edificio può essere di dimensioni varie, dipende sempre da quelli che sono le persone che intendono collaborare al progetto, quelli che sono i fondi che si ha a disposizione e quelle che sono poi le effettive risorse che dovremmo andare a investire. Non fare un conto così sul niente non ha, secondo me, un effettivo riscontro. Prima bisogna vedere quali sono le disponibilità che effettivamente siamo in grado di dare e poi magari adeguare quelle che sono le nostre aspettative alla spesa che noi ci facciamo. È ovvio che un preventivo serve, però prima bisogna avere un secondo in mano quelle che sono le dimensioni del terreno che ci danno la possibilità di trovare, quelle che sono le spese effettive per le attrezzature. E poi quelle che sono le spese effettive per il materiale da utilizzare per la costruzione del progetto. Io so che la domanda dice: ma allora è cambiato tutto quanto in aria. Giustamente potrebbe obiettare una persona normale, obietterebbe in questa, con un senso critico, obietterebbe in questa maniera. Ma ora come ora, fare un preventivo di cifre così dette per dirle non mi sento, perché non ho ancora le capacità concrete, né ho i dati concreti per riuscire a fare un preventivo serio, non avrebbe senso. No, ma già che non era assolutamente una critica, anzi, scusami se l'ho fatto sembrare così, era per capire già che dici, per esempio, 3.000 metri quadrati, già dai un ordine di grandezza, era per capire più o meno su che tipo di territorio, quanto territorio, ma sempre rimanendo così, estremamente vaghi ovviamente, perché non potrebbe essere altrimenti, quante persone secondo te potrebbero servire per un appezzamento di terreno di 3.000 metri quadri? Allora, tenendo conto che sarebbe un appezzamento di terreno ad uso polivalente, cioè avremo il fattore produttivo industriale, il fattore produttivo alimentare, il fattore acquaponico e il fattore della permacultura, quindi è molto diversificata la produzione. Io penso che il numero vada dalle 10 alle 15 persone, non sparando cifre assurde, ma perché proprio è una mole di lavoro notevole, perché l'acquaponica richiede una dedizione di persone a quel progetto, la permacultura una dedizione a quelle persone, l'agricoltura di per sé è un lavoro pesantissimo che toglie tantissimo tempo e chiede delle persone che si dedichino a quello. E poi c'è tutto quanto quello che è il fattore di manutenzione, costruzione e produzione di beni di tipo primario. E io penso che tra le 10 e le 15 persone siano necessarie. si parla di un piccolo nucleo di persone estremamente atte a lavorare. È un lavoro che chiede un grande sacrificio, però è molto interessante come cosa perché 10-15 persone, se noi riusciamo a portare un esperimento a compimento e 10-15 persone che effettivamente riescono a produrre, autosostenersi, ad avere addirittura un'eccedenza, e secondo me se il progetto raggiunge una produzione tale arriverà sicuramente a un'eccedenza, l'investimento potrebbe anche ritornare molto rapidamente come fattore di soldi, sempre parlando purtroppo in maniera capitalistica, ma per riuscire intanto a ripagare magari quelli che sono gli investitori, che sono in realtà non sono investitori, ma sono coproduttori di un progetto fantastico, ma per riuscire poi anche a portare in giro quella che è l'idea, perché se noi riusciamo ad arrivare il più possibile in fretta a una parità di bilancio, chiamiamola così, è più facile poi poter iniziare il progetto da un'altra parte. Ok, do la parola a Flavio. Sì, vabbè, io avrei anche una piccola disponibilità a livello di terreni, eccetera, ecco. Però prima di vedere questo volevo appunto anche io ricordare, mi veniva anche scritto in chat, che effettivamente servono più molto probabilmente le persone che i soldi. I soldi secondo me si trovano, se le cifre sono quelle, si trovano, insomma, non sono cifre grandi, anzi. E poi volevo ricordare anche che appunto, se viene attivata da ora in poi una collaborazione fra i vari movimenti come il nostro, di Jacopo e tutti gli altri movimenti, non, insomma, cominciamo a essere diverse persone, diverse idee insieme, appunto condivise in questo modo, in maniera aperta, la dobbiamo studiare bene, però è un bel esempio per portare a giro, insomma, se poi ci recuperiamo qualche soldo in qualche modo, magari un domani facendoci venire qualcuno a visitarla, insomma, non so, pa far pagare un piccolo biglietto solo per recuperare, diciamo, perché no? Viviamo in un mondo in cui per ora i soldi ci vogliono, quindi è ovvio che qualcosa dovremmo riprendere, però è fattibile, secondo me, se ci organizziamo bene, insomma. A me dispiace ragionare con la mente da imprenditore, ma purtroppo io sono figlio di un imprenditore e un po' formalmente se me l'ho dato. Però purtroppo, come diceva Flavio, viviamo in un mondo pieno di soldi, dove i soldi fanno girare l'economia. Noi dobbiamo fare un'operazione di start-up di un'impresa. E purtroppo quello ci serve un investimento. Il problema sono le persone che sono il capitale più insostituibile di tutte. Se noi troviamo le persone giuste, con le capacità tecniche e con le capacità teoriche, riusciamo a fare un connubio di queste persone, poi potremo portare il progetto a un livello oltre. Se ci mancano le persone, e come dice Flavio, poi i soldi li troviamo, là il progetto si è già arenato. Io qui a Padova ho 4-5 persone che possono essere interessate. Uno purtroppo è in Mongolia e tornerà prossimamente perché è in viaggio. Però lui è una persona, è un progettista ed è anche un bravissimo lavoratore saldatore meccanico e sicuramente lui ci potrà dare una mano a far partire già la pompa. Se noi gli lasciamo il progetto, lui in 3 giorni ce l'ha fatta. Non è quello il problema è trovare le persone che purtroppo se non abbiamo quello ci manca il capitale base, cioè il capitale culturale e operativo. Poi Jacopo, non so se è una cosa che ovviamente avrei già pensato, perché noi eravamo ancora più indietro di te come fase di progettazione, ma ci dicevamo anche, e anche a livello imprenditoriale, non sono figlio di imprenditori, ma ci dicevamo anche, magari una stronzata, che si potrebbe anche produrre un surplus da tentare di vendere o comunque, come diceva anche in qualche modo Flavio, oltre che far pagare un biglietto, farlo diventare. Anche seguire senza fare inutili polemiche una sorta di modello virtuoso di agriturismo per persone che possono essere interessate a questo tipo di cosa, ovvero se riusciamo a costruire 4 stanze in più dedite all'affitto e 4 peli con cui fare una marmellatina biologica, forse qualcosa rientra anche da lì. È una cosa che avevi pensato? Pensato, condiviso, approvato con più e più persone, perché purtroppo quello è l'unico modo che noi avremo effettivamente, cioè, non pensando di andare a parlare con voi, ma pensandolo qui più in piccolo, in regionale, come tante altre realtà della quale ho avuto l'opportunità di parlare prima, noi pensiamo proprio di fare così. Se noi pensiamo solamente al fatto che c'è la possibilità di fare un'attività come quella dell'acquaponica, cioè della produzione di vegetali in contemporanea all'acquacoltura, cioè l'allevamento di pesci e di crostacei, Già di per sé quello produrrebbe un surplus pazzesco, perché il crostaceo tende a metterci relativamente poco tempo, soprattutto quello d'acqua dolce a crescere. Determinati tipi di pesci ci mettono all'incirca 6 mesi, un anno, e intanto però avresti una produzione vegetale continua, avresti una produzione dei campi continua, perché c'è anche l'utilizzo della permacultura, quindi anche di ovini e o eventualmente di vari tipi di allevamento tipo galline, eccetera. Allevamento aviario, e c'è comunque la possibilità di diversificare in mille modi. Poi, per quanto riguarda l'edilizia, per esempio, nel caso di voler costruire un centro abitato, uno o più unità abitative, si può andare sempre comunque sull'autocostruzione. Stiamo parlando, per esempio, delle case di paglia, che è una cosa che ho linkato tempo fa, che sulla pagina del movimento di Open Source Ecology, che è una cosa che io approvo e condivido, di casa mia la vorrò fare così perché è estremamente conveniente, ti permette un risparmio energetico spaventoso, soprattutto non ti rende schiavo per 30 anni di una banca dove devi pagare un mutuo, ma con meno di 100.000 euro ti sei fatto una casa, il che è qualcosa di impensabile al giorno d'oggi, anche una gran bella casa. Posso? Vai, vai. Ma Jacopo, avete pensato di contattare ecovillaggi che esistono di già e sono già, diciamo, virgolette, affermati e lì inserirvi, diciamo, come open source ecology, costruire le vostre macchine lì, invece di partire da zero? Allora, come realtà, per esempio, come case di paglia, come altri villaggi, qui in Veneto io non ne conosco molte. Conosco una realtà che è quella della Boa, che è la prima casa di paglia costruita in Italia, dove loro già hanno pensato realtà del genere. Ci sono molte persone che hanno pensato a fare come utilizzare l'autocostruzione come uno stile di vita. Purtroppo non tutte sono legate una con l'altra, anzi, questo crea un problema perché molto spesso uno ignora la piazza dell'altro, magari sono a 30 metri l'uno dall'altro. E vorrebbero cercare qualcuno che gli dà una mano, ma non lo sanno che è dietro di loro e come fanno. Questo è il problema. Molto spesso non sono reperibili come persone, anche se ci sono. Io purtroppo non ho tantissimi contatti con realtà già esistenti. E infatti, prima ne parlavamo, il fatto che io conoscevo un progetto che era stato avviato in Liguria, c'è chi mi parlava del progetto dell'Umbria, questo è dell'hotel completamente autoalimentato da energie rinnovabili. Ci sono tante realtà che ci sono ignote gli uni agli altri. Se riusciamo a coalizzarle tutte in un unico sistema di rete, sarebbe il raggiungimento di un obiettivo notevolissimo, direi. Se non sbaglio, c'è un sito in cui tutti i vari ecovillaggi si iscrivono e c'è tipo una lista, non so se lo conosci. Come ho già detto, ahimè, manca. Determinate conoscenze mi mancano. Sì, vabbè, ma comunque noi abbiamo vari legami con il PER, con Tronchini, che comunque, cioè, possiamo aiutarlo, ragazzi, sicuramente. Ripeto, il vero problema secondo me sono le risorse umane. Il resto si trova. Ho anche collegamenti a livelli più alti, sia per soldi che per luoghi, ma le persone sono quelle che ci mancano. Io propongo, scusatemi, per le persone che sono magari nelle zone limitrofe nell'arco di qualche, non so, un 100-200 km, se magari potrebbe essere un fine settimana al mese, una volta pianificato quello che sono le attrezzature, ciò che serve un po' alla volta, comunque trovarci e lavorare insieme. Ti accolgo a braccia aperte se mi fai un'offerta del genere. Il problema è riuscire a trovare il luogo. Se noi abbiamo, io qua di risorse umane ne vedo a bizzeffe, già solamente in queste 2 ore che sono rimasto qua. Se poi voi contraddirmi che non avete problemi per recuperare il materiale, i soldi, i luoghi, le risorse umane quelle le possiamo trovare ognuno delle conoscenze prossime. Se noi utilizziamo la rete di relazioni personali a maglia stretta, di quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo, che ci lavoriamo tutti i giorni, comunque sono persone con idee tipo come questa qua nostra che condividono. Secondo me, se noi gli proponiamo, guarda, ti vai di venire via una volta al mese e partecipare al progetto, secondo me ci stanno. E bisogna trovare il modo giusto per proporgli la cosa. È là il problema. Bisogna un secondo galvanizzare queste persone, ma come diceva appunto, non mi ricordo se Daniele o Fausto, il problema sono le risorse umane, cioè se noi non abbiamo quelle ci manca tutto. Raga, non vi preoccupate, vi mando io i link a Jacopo, quindi state tranquilli che riceverà tutto. Io conosco No, ma un infatti allora. nemmeno. Scusa, vai. Scusa, scusa. No, no, vai, vai, vai, vai. No, Conosco un ragazzo, un manager che ha studiato all'università giapponese, che è metà italiano e metà giapponese, che beh, lavora, è un sistemista, automatizzazione, fanno design per l'automatizzazione di compagnie e case farmaceutiche, però si può fare in tutti i campi. Lavorano con Linux, programmano sistemi, automatizzazione, aiutano la logistica, la strategia di mercato delle compagnie. È un mio amico, è molto in linea con noi, mi chiedeva se poteva aiutarci. Quindi se noi riusciamo a trovare la base delle persone che riescono ad aiutare Jacopo a creare l'inizio perlomeno del villaggio, le risorse anche a livello strategico si trovano e questo ragazzo ci aiuterà gratis e porterà anche i suoi ingegneri per aiutarci. Però deve trovare una cosa già iniziata. Quindi il problema grosso che vedo io all'inizio, se riusciamo a farlo partire questo progetto, poi ci sono persone interessate. Io lavoro nelle corporation, ho amici che lavorano in ingegneria, eccetera, che vorrebbero farlo gratis. Allora io l'unica cosa che io farò questo mese, oltre a lavorare, sarà cercare un luogo atto a far partire tutto, perché voi mi state dando talmente tanta enfasi, voi non avete idea di come mi sto galvanizzando io l'idea, e appena avrò la possibilità di trovare, beh, intanto i fondi, poi adesso dopo aver parlato con voi parlerò con il mio collega tedesco domani sera o domani pomeriggio e inizierò a cercare disperatamente un luogo dove far partire il progetto. Nel momento in cui ho le risorse per far partire il progetto, io, signori, vi do le chiavi in mano, vi dico, venite, datemi una mano perché qua bisogna fare. Abbiamo la partenza, facciamo partire la cosa. Nel momento in cui abbiamo uno, due, tre oggetti pronti, il progetto è andato e potremo portare l'inverosimilità di risorse umane, tecniche, economiche a sostenere la causa. Beh, intanto si potrebbe mettere giù una bozza di quello che dovrebbero essere i punti principali per sviluppare questo progetto, partendo da appunto quello che sono il territorio, le attrezzature, le risorse, e quindi poi vedere chi effettivamente si rende disponibile a fare questo. Se mettiamo giù una sorta di magari un documento, facciamo un gruppo su Facebook in cui in qualche modo si comincia a mettere qualche punto di riferimento a cui rivolgersi, oppure direttamente, anzi, ce l'hai già, e quindi magari dare la propria disponibilità e uno incomincia, come ad esempio tu stai dicendo, incominciare a raccogliere quello che sono le disponibilità e poi ognuno di noi magari si impegna mettendo dei punti, dicendo adesso dobbiamo cercare il territorio, ognuno di noi magari porta quello che è la possibilità. Perfetto. Quello, cioè, è una cosa che praticamente stiamo ripetendo più e più volte, però sì, obiettivamente hai ragione. Adesso l'unica cosa è andare sul concreto. Io parlerò con il mio corrispettivo tedesco, che è responsabile europeo, lui poi parlerà magari con Marcin, poi quando avremo un qualcosa di più concreto, quando avrò steso un qualcosa di più concreto come soldi, pianificazione, dimensioni del terreno e luogo, poi magari riusciremo a recuperare qualcosa, però ora come ora quello che è importante è trovare il luogo. Quando avremo un luogo per far partire il progetto, che è una cosa che ha bloccato i colleghi tedeschi, abbiamo praticamente già avviato la cosa, perché nel luogo poi creare un tendone con un prefabbricato non ci vuole niente, e far partire poi la costruzione è quella ancora meno. Poi tra l'altro, scusami Jacopo, ma perché sono un po' interessato appunto dopo la cosa di Verona e questa persona di cui poi adesso ti ho anche scritto in bacheca, scusami ma non sapevo, non ho trovato la tua mail giusto per rimanere in contatto, È ma nelle informazioni della pagina. ora la cerco meglio. Ma insomma questo ragazzo che appunto ha la competenza anche, diciamo un po' una battuta, ma in realtà fa veramente comodo il fatto che sia avvocato, perché si è già interessato a tutta una serie di questioni, appunto, di edifici edificabili, non soltanto della interessantissima Casa di Paglia di cui non sapevo prima di ora, ma ci sono diverse soluzioni per comunque in qualche modo riuscire a costruire gli escamotage da azzeccagarbugli che gli avvocati spesso hanno. Le cose del luogo che noi ci chiedevamo era che dovrebbe secondo noi avere dell'acqua, una sorgente, un pozzo, e in ottica pessimistica, io non so se hai notato dei miei commenti, sono abbastanza pessimista o comunque molto iperrealista su come Realisti, stiamo. realisti, no, no, fai benissimo, fai benissimo. Esatto, e lo vedrei questo luogo addirittura quasi difendibile in ottica di disastro energetico, magari non prossimo, ma da qui a 10 anni, che ne so, perché a me in realtà più una cosa del genere, a me personalmente, poi ben venga e sarei felicissimo se ce ne fossero decine di migliaia in tutta Europa, a me interesserebbe perché preferirei lavorare tutto il giorno alla mia terra che mi dà da mangiare piuttosto che per 50 euro rischiando la vita per uno stronzo, no? In qualche modo sarebbe, diventerebbe anche una scelta di vita e un luogo anche dove vivere con delle persone con cui si condivide uno stile di vita, degli ideali e un'ottica anche appunto sociale ed economica condivisa, appunto. Allora, qua vedo che c'è un sacco di gente che mi chiedono tipo i disegni per i progetti e quant'altro. Per tutti quanti i disegni basta andare sul link che ti ho messo nella mia formazione del forum e li trovate in forma di wiki, basta andare a cercare. Purtroppo è in inglese e non è fatto in una forma di wiki eccezionale, però sono già reperibili, ampiamente reperibili e entro aprile ci saranno altri 8-10 progetti disponibili. Per ora ne abbiamo 3 e già questi 3 vi assicuro che sono qualcosa di estremamente interessante. Comunque sono d'accordo con la critica di Delio, perché effettivamente ha perfettamente ragione. Comunque la mia idea principale era trovare un campo con un pozzo autonomo, proprio per rendere immediatamente già autonoma dal punto di vista idrico, almeno l'abitazione varia ed eventuale, o comunque l'attività di produzione. Volevo dire qualcosa, visto che siamo in questo argomento qui. Per il 20, per la prossima domenica, non quest'altra, no, quest'altra ancora, fra 2 domeniche, dovrei riuscire ad organizzare un viaggio al Per con delle persone vicine di casa. Io abito in periferia di Firenze, Mugello, con casa e terreno, pozzo, visto che parlate anche di pozzo. E l'idea nostra, che da qualche mese stiamo cercando di formulare, di creare anche in forma scritta come progetto, è quella di appunto coltivare il terreno qui intorno in modo progetto unico, quindi nessuno fa il proprio orticello, ma lavoriamo insieme per avere poi una condivisione dei prodotti e sempre in maniera ecosostenibile. Provare anche ad alimentare le case da un punto di vista elettrico e il riscaldamento in modo ecosostenibile, anche se al momento abbiamo tutti più o meno realizzato sia le abitazioni che altre cose in maniera convenzionale, insomma, con sistemi convenzionali. Ci stiamo organizzando per questo viaggio al Per. Successivamente ci piacerebbe andare all'ecovillaggio di Jacopo Fo, per vedere anche come hanno realizzato loro così questi villaggi, questo grande villaggio, vendono addirittura alcune abitazioni per persone che vogliono intraprendere quel tipo di percorso. E uno dei problemi, per esempio, che incontriamo noi quando parliamo di queste cose qui è anche il tempo. Noi siamo in 4 famiglie qui, e ognuno con un proprio lavoro per mantenerci, e il tempo per iniziare a coltivare, anche produrre, ma anche per trovarci ed organizzarci non è poi così abbondante. L'idea è buona, obiettivamente, ma come abbiamo già detto in più persone, ci sono tante realtà che volevano cominciare, che sono cominciate, che magari non conosciamo perché sono dietro l'angolo. La cosa che per esempio volevo chiedervi è, ho appena postato qui una copia del link del forum dell'OS Italia, dove magari creare un post, una discussione sul dove trovare gli spazi, chi mette spazi a disposizione, chi ne possiede, chi ha la possibilità di dare spazi in tempo non determinato, perché ovviamente non è un progetto che porta via 2 giorni, ma è un progetto che probabilmente porterà via un anno e mezzo, forse 2, perché richiede un investimento di risorse, di tempo e di denaro. E se chiunque è in grado di farlo, beh, ben venga. Se vi siete disposti a darci questa disponibilità, posso solo dire che grazie. Ma io in realtà adesso, scusate, ma visto che si sta parlando di questa cosa, io avrei anche ho un amico che stanno per vendere un bellissimo complesso sulle colline di Lastrasigna, che è una zona di campagna, quindi proprio campagna, però ancora abbastanza vicina, insomma, come dire, mezz'ora dalla A1, no? Per intendersi, quindi non completamente fuori dal mondo. E visto che non mi ricordo chi prima in chat diceva il problema non sono i soldi, allora parliamone un attimo per davvero tutti bene, perché se ce li abbiamo i soldi si prende e si fa, ma gli si fa un'offerta e sarebbero anche un comodato d'uso, appunto un affitto quinquennale per intanto farlo partire e poi rinnegare con la clausola di rinegoziazione tra 5 anni con determinati parametri, insomma, si può tentare di imbastire anche l'acquisto. Secondo me, il problema non sono le risorse umane, semmai un po' le competenze, ma insomma, mi sembra che le competenze ci siano, ma sono i soldi per comprare un bel terreno. Se qualcuno ce li ha, ragazzi, tiriamoli fuori e facciamolo. Signori, stiamo parlando di cifrette importanti, non è che un campo di 3.000-4.000 metri quadri te lo regalano, stiamo parlando di cifre che vanno sui 100.000 euro, sono cifre notevoli, almeno qui nel Padovano, io giusto per buttare un occhio guardavo quelle che erano le offerte, era solamente terreno agricolo, chiedevano cifre notevoli, perché tieni conto che un affitto per un campo agricolo ha un minimo di 15 anni, solamente l'affitto del campo agricolo è a 15 anni. E pensate a quella vendita, cioè, è comunque un oggetto che tende a produrre profitto, anche se non è costruibile come mattone, ma in ogni caso è qualcosa di particolarmente importante come acquisto. Sono cifre notevoli, non penso che tutti quanti abbiano delle cifre tali a disposizione, anche se tutti assieme potremmo metterle, è comunque una spesa notevole. Ti linko il posto che ti dicevo. Grazie. Ora, non scrivetegli che glielo vogliamo comprare perché prima gli andrebbe detto, nel senso, però siccome sono amici cari e mi stavano parlando del fatto che devono vendere, se qui non, ho sentito dire che, non da te Jacopo, ma che il problema non sono i soldi, prendiamoci questo bellissimo agriturismo e guardate quanti ettari ci sono per coltivare olio, vino e quant'altro. Io adesso do un'occhiata, però già dalla cosa mi sembra molto interessante. Ah, Jacopo, stavo vedendo qua nella pagina nazionale di Open Source Ecology che hai postato un articolo sulla RepRap. Anche noi in progetto abbiamo di costruire una RepRap. Se ci fosse qui Daniele Podi che davvero impazzirebbe, ti aiuterebbe sicuramente. Ah beh, è un progetto che stanno già ampiamente prendendo in considerazione, già Marcin ne sta costruendo, anzi non ne è costruita proprio una. Nella sua officina, un pelo più grandina di quella che è qui nell'articolo, ma ampiamente funzionante. Anzi, adesso se si va a vedere nella pagina proprio del Global Village, proprio la prima macchina che appare nel set delle 50 macchine da costruire è proprio la RepRap. È una delle cose che appunto ho trovato più affascinanti, forse il fatto che sia lo Zygas Movement che che l'open source ecology condividessero già di partenza una così grandissima varietà di iniziative, idee, macchine, progetti. È per quello che ho detto, beh, perché non andare da loro? Ma infatti, sfondi portoni e porticati aperti con noi. Infatti, già le cose che stai dicendo le stavamo già considerando. E ora, grazie anche al tuo supporto, le metteremo sicuramente in pratica. Ci saranno le persone. Allora, signori, l'unica cosa che posso dirvi è rimbocchiamoci le maniche e tiriamo su capitale sociale e culturale. Parlando da sociologo, abbiamo bisogno di capitale, di sfruttare il nostro capitale sociale, le nostre connessioni in rete a maglia larga e stretta, e tirare su quanta più persone possono essere interessate al nostro progetto. Tutto là. Io penso che se gliele spieghiamo nella maniera giusta, ne troviamo molte veramente disposte a seguirci. Io già qua a Padova ho trovato molte persone interessate. Addirittura c'è una mia amica che è un sottufficiale della Croce Rossa che mi ha proposto di andarla a proporre alla Croce Rossa perché potrebbe interessare anche a loro come progetto, perché è qualcosa di talmente innovativo che porterebbe le persone del terzo mondo che sono in uno stato di indigenza a diventare autonomi e non più dipendenti dal paese del primo. Quindi figuratevi già chi ha pensato ad andare oltre a quello che noi proponiamo di fare qui in Italia. Vabbè, quindi mi sa che potrebbe essere uno degli obiettivi da poter fare a breve termine, comunque di dare la nostra disponibilità, comunque di associarsi anche a coloro che hanno già iniziato, dove magari loro stessi si trovano in difficoltà per mancanza di risorse, mancanza di persone che comunque si dedicano e che credono in questo progetto. Quindi se fosse un'opportunità plausibile, potrebbe essere che già prendendo prima di tutto in considerazione questi e vedere quanto è fattibile il poter supportare e comunque condividere questo nostro spirito con quelli che già lo stanno facendo, forse lo si rende più fattibile. Certo, io guarda, non ho mai neanche visto un villaggio totalmente ecosostenibile, però quando sono andato a parlare con questo qua della Transition mi diceva che in realtà io sono andato con lo stesso identico spirito che tuo di ora, ma e mi diceva che in realtà poi è certo un'arte che si impara, quella di impiantare comunque un sistema di sostenibilità sul territorio. Però è un'arte un po' zen perché si deve un po' adattare ogni volta sia alle persone ovviamente che la costituiscono, ma soprattutto al territorio stesso, ma inteso anche come realtà locali, comuni, capire se in quel comune poi c'era tutta una serie di cose, ci ha dato un malloppone di link di scaricare da manuali, eccetera. Perché loro stanno proprio cercando di teorizzare un sistema di attecchimento di proposte di questo tipo. Da quello che mi sembrava di capire, diceva benissimo Daniele, mancano ci servono le competenze e poi a seconda del team di persone che si va ad instaurare sul territorio specifico, poi ognuno si reinventa un po' il suo modo di farla, non c'è un sistema standardizzabile, ecco. Vorrei solo dire una cosa, correttezza e razionalità. Ricordiamo una cosa, che l'Italia non può essere sostenibile, quindi un villaggio sostenibile è una cosa che può essere fatta solo in piccola scala, non in grande scala. L'importante per me è più che altro a livello sociologico, perché una volta che dimostriamo che possiamo essere una comunità che lavora bene insieme, che siamo costruttivi, che possiamo produrci molte delle cose che ci servono, perlomeno i macchinari da soli. Poi dobbiamo creare una rete di open source ecologists in tutta Europa, in tutto il mondo, che scambiano gli eccessi, perché senza paesi più grandi l'Italia non ce la fa. Abbiamo fatto un calcolo una volta io e Federico, se noi prendiamo lo standard del villaggio sostenibile al momento più high tech e più sostenibile che conosciamo, l'Italia come territorio, includendo le Alpi intere e gli Appennini, sosterrebbe massimo 15 milioni di persone. Ecco, quindi teniamo sempre in conto che il 100% di sostenibilità in Italia è un sogno, dobbiamo farlo in grande scala. Però comunque l'importante è iniziare da qualche parte. Ma infatti, No, Daniele, esatto. dicevamo, scusami Jacopo, ti lascio subito, ma infatti dicevamo prima anche con Jacopo di fare una cosa anche qui di transition, ovvero se abbiamo delle stanze da affittare, le affittiamo, se produciamo del surplus, delle cose di cui produciamo del surplus, che ne so, produciamo 8 kg d'olio, va bene, venderemo l'olio per comprarci il gasolio che ci serve per quell'altra roba lì se non siamo riusciti a renderla del tutto autonoma, piuttosto che quando si rompe l'impianto solare riprendere i pezzi, non lo so, poi non sono tecnicissimo da questo punto di vista, ma si può pensare, no, di fare all'inizio una via di mezzo comunque sostenibile per la propria vita, cioè io sto parlando di andare in un posto, lavorare lì, non dover avere un mutuo in banca, non dover avere un capo che mi rompe i coglioni e mi fa rischiare la vita quando vuole lui per due spiccioli e mangiare con quello che io ho prodotto. Poco male se poi ho dovuto in qualche modo ancora relazionarmi in un sistema socio-economico in cui ho bisogno ancora di qualche euro e però me li posso curare in un modo fico. Sì, totalmente d'accordo. Ah, il modo fico, mi è piaciuta moltissimo la parte finale del discorso di Delio. La cosa che io volevo associare, oltre a questo, no, perché poi ti dice il problema culturale. Parliamo anche di educazione, cioè qui non si parla solamente di produrre, di fare, eccetera, c'è anche tutto quanto un fattore culturale ed educativo. Uno dice 15 milioni di persone, noi non dobbiamo, come diceva Dario, noi non dobbiamo portare questo modello e dire dovete fare tutti così. Non possiamo obbligare le persone, dobbiamo insegnargli a vivere in maniera compatibile, cioè quello che loro producono, sfruttare quello che già c'è. Cioè, le città non possiamo svuotarle, signori. Dobbiamo sfruttare anche tutti quanti gli spazi cittadini. Quindi ci saranno anche le transition town, ma saranno riviste in maniera diversa, perché la transition town di per sé, ora come ora, non c'è la cultura perché attecchisca, perché la gente non sa neanche di cosa stiamo parlando, ci danno gli scoppiati se gli parliamo di transition town. Come non esiste che tu porti una persona che non ha mai partecipato a un'iniziativa di tipo ecologico, gli dici partecipa all'open source ecology, ti dice che sei uno scoppiato. Allora bisogna fare sì cultura come avete sempre fatto voi, bisogna produrre e tramite quello che è il prodotto nostro iniziale, che saranno le prime costruzioni, la prima casa, il primo raccolto, il primo boh, quello che riusciremo a fare, da lì possiamo partire a fare cultura. Faremo cultura di tipo libertario, quindi non imporremo alle persone la cosa, faremo informazione, se la gente vorrà venire da noi e capire, potrà capire, se vorrà restare nell'ignoranza, ci resterà nell'ignoranza, noi non possiamo sforzare le persone a comprendere, è una cosa che è controproducente, soprattutto è contraria allo spirito di quello che è lo Zeitgeist Movement e anche quello dell'OSE. Concordo perfettamente. Sì, anch'io concordo. Ecco, dobbiamo fare come diceva Eric Fromm del video che abbiamo fatto passare nel movimento, in cui si diceva che l'uomo in realtà aveva paura della libertà perché doveva accettarne anche le responsabilità qualora potesse sbagliare, appunto. Quindi dobbiamo finalmente prendere coscienza e responsabilità delle nostre azioni. Quindi se una persona vuole rimanere ignorante, vuole attaccarsi allo status quo, ben venga, cioè, non c'è problema. Però ci sono altre persone che comunque vogliono, diciamo, anche rischiare, tra virgolette, però vogliono provarci per staccarsi da questo sistema e crearne uno alternativo. Scusate se vi interrompo, qualcuno di voi ha la possibilità di farmi mettere in contatto con quelli di Transition Italia comunque per creare anche con loro un'altra rete? Avete collegamenti? Beh, immagino abbiate sicuramente collegamenti con altri gruppi, altri movimenti con la quale ovviamente ampliare la cassa di risonanza. E se, comunque, scusate se vi, scusa Vincenzo, se continuiamo a ampliare in questa maniera, i risultati vengono, però ho bisogno di chiedervi. Ovviamente di creare un passaparola veramente spaventoso, perché qui purtroppo il capitale sociale, come voi vedete tutti quanti, c'è bisogno. Ne abbiamo una parte, ce ne manca un'altra, che sono i tecnici, perché ne abbiamo tanta preparazione teorica, bravissimi ingegneri, bravissimi programmatori, ma magari non abbiamo saldatori né meccanici, quelli ci mancano. E oltre a questo c'è bisogno di parlare appunto con le persone. Cioè io ho bisogno di avere una grande cassa di risonanza in quanto rappresentante del movimento, perché più persone riusciamo a recuperare, più potenza riusciamo a sprigionare nella creazione del progetto. Posso, ragazzi? Ok, grazie. Sentite, io ho il contatto di Ellen Berman, che è la fondatrice di Transition Town in Italia. Se vuoi posso metterti in contatto, Jacopo, cioè non c'è problema. Sarebbe una cosa molto, molto interessante. Se riesci a mandare appunto una mail con tutti quanti i contatti, come ti avevo chiesto prima, mi faresti un grandissimo piacere. Sì, non ti preoccupare. Poi ovviamente, ma adesso revisionerò l'articolo che mi hai mandato via mail, lo pubblicherò con il video di Maric, e quindi non ti preoccupare, sarei subito ultra pubblicizzato e ti metterò in comunicazione con Ellen e invierò lo stesso articolo a Ellen, quindi Perfetto, Jacopo, grazie. considera che Transition sta lavorando con 5 progetti con Zcash in Inghilterra e là sono fortissimi e hanno spazi eccetera eccetera, quindi per trovare spazi dove fare piccoli esperimenti e cominciare a fare qualcosa, il PER di cui abbiamo parlato prima, qualcosa delle Transition Town, e poi pensiamo anche fuori dall'Italia. Qualcosa insomma si può fare. Sì, si può fare tutto. Sì, ma le potenzialità ci sono tutte, ma non manca né la voglia né il capitale, a quanto pare non mancano. Quello che manca sono le persone concrete, no? Dicono verba volans, scritta a mano. Quando avremo un elenco di persone concreto, quando avremo un insieme di tutto quello che ci serve, avrò detto veramente abbiamo fatto qualcosa. Ma per ora facciamo la rete, creiamo la rete dei contatti, concretizziamo la cosa e quando avremo tutto allora sarò contento. Vai Fausto. No, no, ma lo sto scrivendo in email, andate pure avanti. No, lo sto Ah, scrivendo in chat, scusa. ok. Ok, perfetto, ragazzi, io non so, vi chiedo a voi, posso staccare la registrazione così concludo e do anche l'annuncio e la condivisione dei link per i prossimi podcast, che dite? Ok, allora saluto Jacopo e saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando. Riceverete i link nel post che pubblicheremo all'interno di zeitgeistitalia.org. e vi ricordiamo che la domenica alle 21.30, a domeniche alternate, ci sono podcast con registrazione e discussioni libere, quindi venite a trovarci tramite la sezione podcast presente su zeitgeistitalia.org. Arrivederci e grazie.